con Andrea Guglielmino per parlare di questo suo lavoro che si accontenta Goldrake. Potremmo anche partire da questa doppia copertina, che dici? Sì, allora, anche qua è live. C'è il live. No, ma intanto la racconto, la doppia copertina. Gli autori sono Sudario Brando e Tono Pettinato. Tutti e due molto bravi, insomma, con due stili completamente diversi. E Tono Pettinato, tra l'altro, è di area toscana, perché lui è un autore pisano, insomma, che sta facendo parecchio successo. Adesso ultimamente ha pubblicato anche un albetto per la Bonelli su Graucio, l'assistente di Dylan Dog, perché ha questo stile così, insomma, umoristico, bambinesco, eccetera. Invece Sudario è più classico. Entrambi hanno disegnato, ma secondo mia indicazione, un simile Goldrake, chiaramente per non incorrere in problemi di diritti, oltre che per, diciamo, agevolarli nella libertà creativa. Sai tu che li hai scelti loro? Li ho scelti io, sì, in una rosa che mi ero fatto, insomma, avevo puntato anche ad altri nomi, però sono contento, insomma, ecco, tra l'altro con Tono Pettinato è la prima volta che collaboriamo insieme. È uno dei miei fumettisti preferiti, quindi insomma tanti meglio non potevo chiedere. Con Sudario invece abbiamo fatto già delle cose, quindi insomma c'era già un rapporto di amicizia e di collaborazione. Due copertine viene dal mondo del fumetto, che alla lontana c'entra perché Goldrake è un personaggio anche dei fumetti, come tutti i personaggi giapponesi partono da un fumetto per poi diventare anime, cartone animato, anche se non conosciamo l'Italia, soprattutto la versione cartone animato. E poi perché anch'io, tra le varie cose che faccio, sono fumettista, scrivo nello specifico fumetti, perché non so se magari molti lo sanno, ma i fumetti sono, prima che essere disegnati, sono scritti esattamente come i film, sono delle sceneggiature, quindi da un paio d'anni faccio anche questa cosa. E nell'ambiente del fumetto si usa spesso fare la doppia copertina, che è un po' un vezzo, sì, diciamo, è anche un po' una manovra di marketing, diciamo, perché solitamente una delle due copertine è stampata in una tiratura limitata, in questo caso è quella di Tuono Pettinato, diciamo, che assume un valore molto maggiore prima il libro deve vendere tanto, diciamo. Io l'ho fatto per gioco, perché mi piaceva questa idea, e poi anche perché quando ho mandato le mie richieste mi sono arrivati due sì, diciamo, perché gli ho detto: oddio, adesso che faccio? Chi escludo? Dico: vabbè, facciamo alla fumettara e facciamo cover regular e cover variant, cosa che tra l'altro l'editore non era tanto abituato, perché lui invece è un editore di libri, questo è un libro scritto, non è un libro a fumetti, e quindi mi ha detto: ma sei proprio sicuro che fa sta cazzata? Dico: sì, facciamo. Alla fine gli ho spiegato, si è convinto, effettivamente, cioè, sta funzionando, perché incuriosisce molto anche questa piccola particolarità. Poi, essendo uscito il libro sotto Natale, anche per fare i regali, no? Ognuno si sceglieva questo regalo, non so, è una cosa così, in più, cioè, questo è il motivo della doppia copertina. L'altra curiosità è Goldrake, perché in base all'anagrafe tu eri molto piccolo quando uscì in Italia. Sì, io fu la prima, diciamo, apparizione del fumetto giapponese, il cartone animato giapponese presso il pubblico italiano, abituato ad altro, insomma. Sì, io diciamo ero piccolo, ma me lo ricordo abbastanza bene, nel senso che era la mia passione quando ero piccolo. Io sono del 76, Goldrake arrivava nel 78, quindi adesso non ti dico che mi ricordo esattamente la prima puntata con Maria Giovanna Elmi, che ricordava che arrivavano questi cartoni animati, mettendo un po' le mani avanti, perché effettivamente il pubblico italiano, soprattutto, ha un lavoro dei genitori, la reazione dei genitori, perché erano cartoni, insomma, particolari per i tempi, anche volendo adulti, violenti, tra virgolette, no? Esatto, insomma, quindi era una cosa nuova, quindi se ne parlo, tra l'altro, nell'introduzione, di questo arrivo di Goldrake, a cui è legata una curiosità che mi piace tantissimo, che anche nello spirito un pochino del libro, che è un libro diverso da quello che faccio di solito, insomma, poi magari ne parleremo un po' più approfonditamente. La cosa che mi è sempre piaciuta è che in Italia il cartone arrivò con il nome Atlas UFO Robot, che è degli anni miei, se lo ricorda, e eravamo piccolini, l'accettavamo, però poi crescendo, quell'Atlas, ma perché Atlas? Perché Atlas? E c'era una spiegazione, tu già ridi, quindi la sai. Perché il cartone animato, la Rai lo comprò dalla Francia, non dal Giappone, tanto che i nomi dei personaggi italiani, che sono diversi rispetto a quelli giapponesi, sono ispirati alla versione francese. Per dire, Actarus in giapponese si chiama Duke Fleet e il robot si chiama Grandizer, non Goldrake. Quindi Goldrake è una cosa tipicamente italiana e anche francese, si chiama Goldorak, se non sbaglio. E quando comprarono questa serie, insomma, arrivò il materiale stampa, materiale informativo, diciamo, materiale informativo, e c'era scritto Atla UFO Robot, che in francese significa guida a UFO Robot. Questo povero funzionario Rai, che io tante volte è passato per scemo, poveraccio, ma magari è un errore che avrei voluto fare anch'io, insomma, perché non ci pensi, ha pensato che fosse il nome di cartone animato, e quindi la serie si chiamò da noi Atlas Guida a UFO Robot, esatto. E perché Goldrake, intanto perché ci sono legato, è un elemento di cultura pop, è una cosa con cui sono cresciuto, sono stati i miei primi cartoni animati, i primi robottoni, insomma, dal 78 cominciava ad avere successo, quindi essere. Ed è un libro che io considero un po' di cultura pop, volendo, perché, e qui possiamo anche raccontare un po', è assolutamente truffaldino la presenza di Goldrake in copertina del titolo, perché il libro non parla di Goldrake, ma è una raccolta di quelli che io chiamo, per fare un po' il figo, aforismi 2.0. Sono le mie frasi di Facebook, fondamentalmente, sono una raccolta dei miei status di Facebook che, man mano che ho imparato a usare una piattaforma, hanno avuto comunque il loro successo, commisuratamente a quello che è il successo su Facebook. Questa cosa mi fa molto ridere, e devo dire, molti dei miei contatti mi dicono, ma perché non li raccogli, perché non lo fai, fanno ridere, sono figli, fanno riflettere anche, no? Perché è vero che è un libro ironico, ma ci sono anche delle cose che invece non sono necessariamente votate all'ironia. Sicuramente un libro leggero, insomma, che spero che si legga facilmente, che sia divertente, poi magari leggiamo qualcuno. Ma all'inizio non ero tanto convinto, perché io intellettuale vecchia a scuola, di quanti mi metto a fare, scrivo di cinema, scrivo i saggi, di quanti mi metto a fare un libro con le frasi di Facebook, eccetera. Finché un po' non mi si è aperto qualcosa nella mente, proprio a seguito di una frase che io pubblicai. Io sono uno che ama molto giocare con le parole, no? Tanto che c'è una serie di vignette anche basata su questo, sul calambur, sull'associazione tra parole e immagini, eccetera. Pubblicai questa frase, chi si accontenta con tre, che ebbe molti mi piace, cioè molto successo, tra virgolette. E effettivamente, quando ho pubblicato quella frase, ho detto, questa secondo me meriterebbe di farci un libro proprio per dare questo titolo, perché lo vorrei leggere un libro che si chiama in questo modo. Un po' come fu Le formiche nel loro piccolo si incazzano, insomma, mi sembrava una frase iconica che fosse divertente. E da lì ho cominciato a prendere in considerazione l'idea di farci un libro. Molto lentamente sono andato poi a vedere intanto se era una stronzata totale o se potesse avere un senso. Quindi sono andato a ripescare tutti i miei status di 10 anni prima, anzi non erano 10 anni, perché parliamo di 2-3 anni fa quando ho avuto quest'idea. E devo dire che sembra incredibile, dice, che ci metti a farlo. Invece c'è stato comunque un lavoro di selezione, intanto perché è difficile proprio meccanicamente andarsi a ripescare, proprio Facebook non ti aiuta, perché non è interessato al fatto che tu mantenga la memoria di quello che scrivi, anzi, no, tende un pochino a passare. Si può fare, però devi andare a trovare tendine, meno nascoste, è lentissimo, quindi ci metti comunque del tempo, del lavoro. Questa è la prima fase, insomma. La seconda fase, una volta capito che si poteva fare, una volta trovato l'editore che era comunque interessato alle edizioni di Progetto Cultura, tra l'altro un piccolo editore di Roma molto bravo, è stato il discorso proprio di selezionarle, cioè di fare qualcosa che avesse un senso compiuto, perché ovviamente intanto c'è l'orrore di andare a riscoprire cosa si scriveva su Facebook all'inizio, perché nessuno di noi sapeva usare, non so quanti fruitori di Facebook ci sono, io come tutti non sapevamo usare questa piattaforma, non avevamo idea di che cosa fosse, no? Quindi mi ricordo i miei primi... Perché da che anno è partito? Dal 2017-2017, sono 10 anni esatti. Si sono stati uno dei primi, ma quello devo dire che mia moglie, quella tecnologica, che poi lei si stufa, c'è ancora queste scherze cagliate su Facebook, invece di come me l'hai insegnato tu, veramente. E, all'inizio io scrivevo in inglese, perché comunque la piattaforma è in inglese, quindi veniva spontaneo scrivere in inglese, chiaramente per un pubblico estremamente limitato, che erano i miei amici, i pochi amici che erano tecnologici, quindi stavano su Facebook e che in qualche modo li seguivano, ma più o meno erano persone che comunque conoscevi. Ora questo non è tanto cambiato, cioè nel senso, io mi sono reso conto che rispetto ad altri users che magari utilizzano anche la piattaforma come mezzo espressivo per farsi pubblicità o per diffondere contenuti, effettivamente i miei contatti sono tutte persone con cui un minimo di scambio ce l'ho sempre avuto. Cioè, non ho i follower, ho proprio gli amici in senso lato, però sono persone con cui ho comunque lavorato o ci siamo sentiti per telefono, un po' l'ho mantenuto. Adesso, diciamo, chiaramente, poi insomma, la rete si è ampliata, però era chiaramente diverso il tipo di comunicazione proprio che tu facevi. Pubblicavi delle cose che non erano di grande interesse, insomma, quello che stavi facendo, quello che... quello che stavi pensando. E poi c'è stato un periodo divertente che mi ero dimenticato, quindi andarlo a riscoprire è stato pure simpatico, in cui tutti gli status iniziavano con il che la pasta è buona, che nevica, che... Perché scrivevamo questo che? Perché la piattaforma ti chiedeva cosa stai pensando e quindi tu rispondevi alla domanda. Poi evidentemente Zuckerberg ha capito che eravamo deficienti, hanno cambiato, scrivi uno status, no, non è... quindi cambiato Facebook, cambiato io anche nell'approccio. Poi nel frattempo ho cominciato a scrivere anche per mestiere, io faccio il giornalista per il cinema, insomma, diciamo, questo non è il mio lavoro, perché stia chiaro cosa fa. Ho sviluppato un metodo di comunicazione un pochino diverso, quindi Facebook lo utilizzo molto proprio per lanciare magari una frase che possa essere ironica, che possa fare anche intanto far ridere, insomma, riflettere. Raramente lo uso per le polemiche, non parlo mai di politica, non parlo mai di cose, qualche volta ci casco perché succede, insomma, però poi alla fine sì, no, certo, quando scrivi la cazzata la scrivi, insomma. Però ecco, diciamo, questa è la formula su cui mi sono attestato e ha funzionato. Quindi, diciamo, grossa selezione anche per capire quegli stati che ancora funzionavano. Cioè, tante volte tu scrivi una cosa che magari è dettata dal momento e dopo tanti anni non si capisce più. E quindi questa è stata la seconda fase di lavoro. Poi, vabbè, insomma, alcune cose che su cui abbiamo riflettuto con l'editore sono state, per esempio, se lasciare o no l'hashtag, che è quella frasetta che si scrive tutto attaccato, che in realtà è una cosa che viene da Twitter, perché su Facebook non funziona tantissimo. Alla fine abbiamo deciso dove c'erano di lasciarli, perché fanno ridere pure quelli. Cioè, tante volte io stesso nell'hashtag metto una cosa che non è significativa per lo status, ma fa ridere, cioè nel senso, non lo so, insomma, vabbè, poi magari ne leggiamo qualcuno. Quindi questo è stato un pochino il lavoro, e questo spiega il perché di Goldrake, che ovviamente non c'entra assolutamente niente, insomma, la cosa becera per vendere il libro. Oh, molte diverse sono legate molto alla demenzialità, quindi immagino anche una tua passione per la scuola Monty Python, insomma, quel sì. Tipo di comicità. Sì, questo te lo confermo sicuramente, mi piace molto Monty Python, mi piace... E poi proprio il gioco di parole, quello tantissimo, oppure la frase a colpo di scena finale, no? Mi sembra che stai parlando di una cosa e invece parli di una cosa diversa. Sì, è una cosa mia, a me le cose che fanno ridere piacciono, ed è una cosa con cui spesso invece mi rendo conto che chi mi legge si trova, non dico in difficoltà, ma in imbarazzo, nel senso, cioè, ma tu come fai... cioè non temi di non essere preso sul serio magari quando fai invece una critica cinematografica, a parte che non faccio critica, insomma, comunque quando fai un pezzo di cinematografico, quando... per me no, cioè nel senso che le cose da ridere sono una cosa serissima, nel senso, come diceva Alberto Sordi, quindi non ce l'ho mai avuto, come non ho mai avuto la distinzione tra la cultura alta e la cultura bassa, cioè la cultura, se è prodotta, ti dice qualcosa della società che la produce. Quindi questo problema sinceramente non ce l'ho mai avuto, ho sempre affiancato le due cose. E poi Facebook è una piattaforma che secondo me si presta particolarmente bene a quello. Cioè io, per esempio, sì, chiaramente condivido anche quando scrivo, non so, dei festival, oppure faccio un'intervista, lo condivido, ma non sono fino a nessuno. Quando invece scrivo una delle mie cazzate, e io scrivo proprio cazzate, cioè nel senso, lo metto nell'hashtag perché sia chiaro. Avvertimento. No, ma avvertimento, sai perché? Perché appunto, visto che c'è questo fraintendimento, a volte pensano che sono serio, capito? Allora diventa una fake news, e allora devo fermare, guardare che sono ironico, sto cazzeggiando, cioè una cosa. E questo è successo, tanto che c'è una sezione nel libro che mi piace molto, È successo durante un festival del cinema di Roma, una delle varie feste del cinema, mi pare fosse il 2012, su Christian Bale. Cioè questa sezione che va spiegata, si chiama Gente che ha visto Christian Bale, perché è nata proprio così. Tanto che non sapevo se inserirla o meno, poi con l'editore mi ha detto no, mettila perché è forte. Che succede? Allora, festival di Roma, c'era Christian Bale che aveva un film quell'anno che era Out of the Furnace, Il fuoco della vendetta. Era un momento in cui l'attore era, insomma, grande visibilità, perché aveva fatto Batman, Nolan, c'era un sacco di fan, un sacco di ambo i sessi, insomma, però mi ricordo amiche mie che sono venute da Torino per vedere Christian Bale, che in realtà, diciamo, non era detto che ci fosse, no? Non era annunciato, no, viene, se poi se viene non ci sono cose pazzesche. Io poi sono sempre stato, mi piace molto il cinema, sono sempre stato invece molto distaccato rispetto a questo, no? Lo star system. Cioè, per me gli attori sono bravi, ma sono pupazzi, no? Cioè, nel senso, servono per fare quella storia, sono più sui film. Però per carità, insomma, è divertente, almeno ce ne sono persone. E Christian Bale non si presenta perché c'erano avute cose sue da fare con la stima, no? E fino a qua, ok, si avvicina la premiazione, come spesso accade, se diciamo qualcuno, perché comunque c'era una premiazione ancora quell'anno, era una delle edizioni in cui mi pare ci fossero i premi, insomma, che poi invece la festa di Roma, diciamo, ha dato solo il voto della giuria. Quando si avvicina la premiazione, se si avvista, lo dico per chi magari non è avvezzo alla frequentazione di festival, se si avvista qualcuno, evidentemente perché è tornato per prendere un premio. Insomma, io mi ricordo, eravamo in sala stampa, comincia a diffondersi fortemente la voce che Christian Bale non solo fosse tornato al Festival di Roma, ma che fosse in sala con il pubblico a vedere Il fuoco della vendetta, che è una cosa, insomma, che non succede quasi mai, perché difficilmente l'attore... E cominciamo a rigolare su questa cosa. E quindi ci ha avvistato Christian Bale di qua, di là, eccetera. Diventava sempre più forte questa cosa. Io cominciai dalla sala stampa a scrivere su Facebook, cioè, è stato avvistato Christian Bale al kebabaro dell'auditorium, ha ordinato il kebab piccante, no? E ho capito che la gente ci credeva, no? Quindi, cioè, cioè, io sono andato al kebab bar, non ho visto niente. Allora da lì ho sentito l'esigenza, continuando a fare questa cosa, di mettere l'hashtag gente che ha visto Christian Bale. Poi la cosa è piaciuta, altri amici, gente che mi seguiva, ha cominciato a proporre la loro versione di gente che ha visto Christian Bale davanti per un paio di mesetti, e quindi alla fine è diventata una sezione del libro. Però ecco, l'esigenza era proprio di dire, non è che vi sto dicendo notizie false, è che divertiamoci pure sul cinema, nel senso, se no andiamo a fare un lavoro più noioso, no, più remunerativo, magari, insomma, questo è un po' il concetto, insomma, quindi non sono fake news, ma sì, insomma, più concetto, anche demenzialità, ma non solo, cioè nel senso, comicità, uso anche la comicità demenziale, uso tutto, la comicità demenziale, le parolacce, io sono anche molto volgare quando è necessario, perché a volte farli ci vuole la volgarità, insomma, è una parte del linguaggio, oppure cose invece un po' più... Diciamo che non mi precludo nessuna possibilità, su Facebook meno che mai, quando invece scrivo per Cinecittà News ovviamente uso altri toni, ecco, insomma, questo sicuramente. Ti chiedevo di questo perché in curiosità leggevo anche che, siccome hai detto prima, hai tirato fuori il termine cazzaro, sì. C'è qualcosa online legato anche a te, un progetto che usa il termine cazzaro, sì, sì, e sì. Che mi incuriosisce molto, io penso poi che il mondo sarà dei cazzari. Sì, questo lo penso anch'io, sì, c'è, perché sempre sulla stessa linea, ormai da parecchi anni, io ho questa attività parallela di vignettista, che ho cominciato in maniera classica, insomma, un po' disegno, no? Non sono bravo come i nostri vignettisti, però ho fatto qualcosa per cuore quando ero riuscito, veleno, eccetera. E quindi, diciamo, ci ho sempre avuto anche questa cosa delle vignette della taglia. Quando ho cominciato a lavorare sul cinema, è venuto fuori, anche insieme ad altri colleghi, di realizzare delle vignette su giochi di parole basati appunto sulla fusione di vari elementi. E mi ricordo, per fare un esempio, insomma, per chi non conosce, la prima fu alla proiezione di Thor, il film, qualcuno disse Odino, dammi un crodino. rivedendo un nuovo slogan pubblicitario. Immediatamente con Photoshop feci il crodino, d'oro, eccetera. Anche lì, un bel successo, nacque il progetto Vendicazzati Uniti. Ecco. Che è un progetto comunitario, nel senso che inizialmente ero io a realizzare tutte le vignette, adesso invece siamo diventati veramente un collettivo, no? Ma di gente anche serissima, cioè, fumettisti della Bonelli, critici cinematografici, che gli piace scherzare anche su questo, e quindi diffusione online, prima o poi mi chiedono anche farai un libro dei Vendicazzati, vediamo, probabilmente sì. Sì, perché anche quello è un modo per vedere la cosa da un'altra prospettiva, no? Girarla e pure quello è tutto basato appunto sull'ironia, insomma, sul calambur. Oh, non ci sono solo cose demenziali, materiale demenziale, ma anche dei mottetti, degli haiku forse, hanno anche un afflato poetico alcune cose, e per cui è un linguaggio molto tipico dei social, la brevità e l'essenzialità. E, ti chiedo appunto cosa ne pensi del pensiero breve, come ti ci rapporti? Benissimo, nel senso era proprio una delle cose che amo di più e si vede anche appunto dal libro stesso, e in particolar modo diciamo il social favorisce questa, cioè, perché lì se vuoi essere ascoltato devi essere sintetico, è così, cioè ti ci porta proprio, no? Ma la rete in generale, ma il social più che mai e Facebook più che mai. Se non sei sintetico non ti leggono, dopo tre righe già, che c'è una cosa che bene o male è pure dei giornalisti e degli uffici stampa, cioè sono le famose 5V, no? E il social lo può declinare in una maniera differente. A me piace tantissimo, io mi considero più che uno scrittore, uno scrivente, nel senso che da un po' di anni questa è diventata la mia vita, insomma, quindi campo proprio con quello. E quindi sperimento tutti i tipi di scrittura che mi può capitare di sperimentare. Quello che faccio principalmente, ecco, la notizia, insomma, sono giornalista, e in qualche modo sia social, volendo, ecco, tanto per stare in tempo. Poi mi è capitato il fumetto, insomma, avevo la passione per il fumetto, allora ho imparato a fare la sceneggiatura per i fumetti, come si fa. Ho scritto un paio di saggi, adesso ce n'è un altro in uscita a maggio su Star Wars, sto scrivendo una cosa di narrativa sempre breve, di racconti brevi, insomma, quindi mi piace moltissimo il pensiero breve, però non escludo anche quello lungo, insomma, credo che ogni cosa abbia il suo spazio, no? Cioè, okay. Si tratta di un contenitore e quindi la forma dell'acqua, visto che siamo in fase di rosa, è quella che prende, diciamo, stando in quel contenitore là. Sul social, su Facebook, io penso che questa sia la forma di espressione migliore, ma non necessariamente comica, si può essere anche sintetici. Certo. Infatti questo, diciamo, è un libro, ci tengo a dirlo, a prevalenza sì, ironica, perché io sono una persona ironica, però tante volte ci sono delle cose che colpiscono perché non se le aspettano, che invece sono cose serie, insomma, no? O anche tristi, cioè sì, parlano anche di cose, insomma, dolorose, insomma. Perché ne fa parte, ecco, questo è un po'. Sì. No, ti chiedo questo perché poi prima parlando diceva ormai non ci legge nessuno, e quando sì, magari sta parlando di articoli, e quindi questo si lega anche al discorso forma libro e quindi narrativa o romanzo. Da un lato ha molti vantaggi il pensiero breve, dall'altra però l'attenzione viene sempre di più a calare rispetto sì, a, sì. Allora, a chi ne fruisce. Sì, dunque, non, sì, però non penso che sia una questione di pensiero breve, c'è sempre stato, sì, no? È la sì, forma agonistica, sì. Laico, la poesia. Non che io abbia delle bellezze poetiche, insomma, di parlo in generale. E forse c'è un bombardamento. C'è un bombardamento. Il social favorisce una certa forma di analfabetismo funzionale, ma non lo causa, secondo sì, me. Certo. Questa è l'impressione che mi sono fatto. Noto sempre di più, ecco, che quando magari pubblico un articolo su un film, su una cosa, la gente non. La gente, probabilmente lo faccio anch'io, chi più chi meno. Mi chiede, ma che ne pensi di questo attore? È quello che ho scritto. Cioè, Ma secondo te, ma c'è scritto nell'articolo, no? Invece si fermano generalmente al titolo, no? sì. Oppure, per esempio, quando vado in radio, no? Io ho uno spazio come ospite presso una trasmissione radiofonica e facciamo una diretta Facebook come stiamo facendo in questo momento, perché è una cosa sempre una cosa carina. Che cosa ti scrivono? Ma ti parlo di persone che non sono stupide, sono persone intelligenti, cioè ti conosco, no? Perché come dicevo io, molti dei miei lettori e seguaci li conosco, insomma, quindi non sto a dire, è un problema proprio di comunicazione. Facciamo la telefonica, mi dicono, ma non si sente. Sì, certo, perché è una diretta Facebook, te devi collegare al sito, adesso lo scrivo, no? Però evidentemente, quindi questo. Perché? Ma non, appunto, ripeto, non per una questione di intelligenza dell'utente, ma perché quell'utente evidentemente ti sta sentendo mentre fa 3.000 altre cose, no? Chiaro. Questo vedilo pure, pensa a come sono cambiati, per esempio, i film di intrattenimento, no? Il film d'autore è già diverso perché uno si mette là così. I film Marvel, per dire, no? Sono completamente deliranti, cioè non c'è una linea, una sceneggiatura, non c'è niente. Ma perché no? Succedono Succedono cose, no? Mentre fino a 10-15 anni fa Spider-Man di Sam Raimi aveva una sua, no, poteva essere più o meno, però ce l'aveva. Io credo che questo dipenda proprio dal fatto che la gente ormai si riguarda a pezzi, la gente, ripeto, la gente di cui faccio parte anch'io, no? Non è a pezzi, in treno, ma quindi che gli frega? Non stanno lì a pensare alla sceneggiatura, anzi, più cose strane succedono, più l'attenzione dello spettatore, no? Capito? Perché se no quello passa a piatto e sta presso il piatto e non sta più presso Superman che fa le sue cose, no? Quindi in un certo senso sì, il social favorisce il calo dell'attenzione, però non lo causa, nel senso che tu se ti fermi un attimo a riflettere, oppure dici che l'articolo lo apri e lo leggi e decidi se è bello, se è una puttanata, decidi tu poi, no? C'è anche un po', ecco, la tendenza a subire il social, no? Se uno non è attivo, sempre riflettendo, insomma, ma così, diciamo, in maniera libera, poi magari non sono cose che devono verificare. Però io lo vedo anche moltissimo, proprio riguardo al lavoro di critica cinematografica. Io scrivo, allora, a parte, io scrivo delle cose solitamente neutre, perché di base non faccio il critico, cioè raramente faccio recensioni, proprio raramente, perché non lavoro per un giornale che pubblica recensioni, insomma. Qualche volta metto delle cose mie che piacciono a me, quindi, allora, innanzitutto, l'utente medio di Facebook non conosce la documentazione neutra. Cioè, deve capire se tu stai dicendo che quel film è una merda o che è un capolavoro. Cioè, Devi fare il tipo. non riesce a capire che tu stai semplicemente parlando di quel film, gli stai dicendo quello che succede, quali sono gli attori, come si inserisce in un contesto storico-culturale, quelle cose classiche di un articolo di notizia, di colore. Quindi faticano no, quelli un po', diciamo, che hanno voglia di perderci tempo, allora ti chiedono, ma non ho capito cosa ne pensi, e tu gli dici, no, ne penso questo, ma non l'ho scritto nell'articolo. Gli altri automaticamente associano al proprio pensiero quello che tu hai scritto, no? Dice, ah sì, anche per me è bruttissimo, ma io non ho bellissimo, è lo stesso posto, no? Prima. Altra cosa, dice, allora se non ti è piaciuto a te ci vado. Dico, no, cioè pace comunque. Dice, sì, ma tu sei il mio riferimento. Non devo essere il tuo riferimento, cioè è una cosa scritta, cioè pace, poi parliamo, se ti interessa, pace, poi parliamone, no? Il concetto è un po' questo, perché è un po' una pigrizia intellettuale. Detto questo, nessuno ne sente, cioè, anche io tante volte leggo soltanto, magari evito di commentare se non ho letto l'articolo, cioè, adesso ho imparato a fare questo, cioè, vedi, anche perché spesso il titolo è ingannatore, ma il titolo ingannatore di chi si accontenta con altri, che io non l'ho scelto a caso, l'ho scelto perché scrivere un libro così è anche un modo di riflettere su come al giorno d'oggi si possa fare anche un libro raccogliendo gli status di Facebook e facendo finta che parla di Godric quando invece parla di tutt'altro, insomma, è un po' una controriflessione. Senti, ne vogliamo estrarre qualcosa, vogliamo Sì, capire se qualcuno volevo solo abbia di questa dire conoscenza. un'ultimissima cosa a cui tengo particolarmente, che due bravissimi colleghi hanno firmato la prefazione e la postfazione del libro. Sono Valentina Pettinato per la prefazione, che che vabbè, diciamo, fa una prestazione molto divertente, anche lei, sono molto ironica, insomma, pure con lei per scriviamo insieme, facciamo delle cose. Abbiamo un blog che appare solo durante il Festival di Venezia, perché fondamentalmente è una visione completamente anarchica del festival, dove noi parliamo delle ciabatte, delle cose che ci cavano, è pochissimo di cinema. E fa una prefazione insomma carina in cui presenta il libro dicendo i motivi per cui il giorno poi Francesco Alò, che è un bravissimo critico che sicuramente conoscerete, e fa il critico, quindi distrugge il libro e fa bene, perché è quello che mi aspettavo da lui. Ovviamente lo fa in maniera simpatica e ironica, devo dire che anche in quel caso mi hanno risposto in due, ho detto mi piglio tutte e due perché non si può perdere questa occasione. Quindi se non altro, giustamente prima parlavo con un amico per telefono, mi diceva ma io perché mi devo comprare il libro tuo, che sono amico tuo su Facebook e li conosco gli status, però non conosci le prefazioni e le postfazioni di Alò e Valentina Pettinato, che valgono la pena di essere comunque nette, insomma. E per il resto sì, forse è il caso di fare una lettura. Sì. Perché poi mi chiedo le altre presentazioni precedenti. Hai fatto anche poi letture? Sì. Diciamo che sì, la lettura è essenziale per un libro come questo, perché certo. Lo spieghi, ma insomma va. E quali sono le curiosità di chi ascolta? Dunque, le curiosità solitamente no, quello che mi chiedono è appunto il mio rapporto con Facebook, con i social, quello che è, il fatto che io faccio tante cose, quindi come questo si inserisce all'interno del flusso del mio lavoro abituale, queste sono le cose che mi hanno chiesto principalmente. Però sì, chiaramente diciamo che forse è proprio il caso di leggere qualcosa. L'abbiamo diviso in temi, ecco, questa forse è un'altra cosa interessante, che spesso riprendevano un pochino gli hashtag per l'appunto tematici, più che fare una cosa cronologica. Sì. Io inizierei proprio, se vuoi possiamo pure alternarci, questa è una cosa che spesso abbiamo fatto, inizierei proprio con la sezione che apre il libro, che è Filosofia e Vita. Pagina 13. Ne leggiamo qualcuno così? Sì. Se poi alternando, c'è anche pescando a caso. Ecco, questa è la prima, quella che apre il libro. Il sonno della ragione genera stronzi. Esprimo sempre il desiderio di vedere una stella cadente, così se la vedo sono sicuro che sia vera. Dietro un grande uomo c'è sempre un grande culo. La bellezza è nell'occhio di Chihuahua. Questa è così. Assolutamente. Sì, non hanno tutti il senso. Ok, perfetto. Corbelleria unica mia. La frutta è arrivata da tempo, siamo all'amaro. Questo è il tema delle lezioni. Certo. La vita è ingiusta, le perle ai porci, le porche ai birra. Sono fancazzista credente, ma non praticante. E poi si stava meglio quando si stava meglio. Questa mi ha folgorato. Un po' alla catalana. Non so, ti citerò con questa. Senti, sì. Tutti si preoccupano dei cervelli sprecati in fuga e nessuno dei cervelli sprecati in figa. E questa è una cosa. Le regole sono due palle, fatte per essere infrante. Se ti vuoi inserire, a fare complimenti. Beh, è molto meglio l'autore, però. Se non puoi sconfiggerti, rompigli il cazzo. Questa pure è notevole. Non ve le leggo tutte, se no non ho preso. La volpe che non arriva a lupa bestemmia. Oh, rispetto alle cose che ormai cominciano sempre tardi, la notte è giovane, ma io no. E questa è una di quelle. Infatti l'ho scritta una sera a Venezia, in cui tutti i miei colleghi si dicono, ma dai, come sei vecchio, noi andiamo a ballare, dico sì, ma poi domani voi come state? Da dormivano, cioè capito? Io per quale volta stavo a seguire il film, capito? Poi sono vecchio, no? Figo è chi ha successo, fighissimo è chi ha successo e sembra che non gliene freghi un cazzo. Paradossi della vita, per fare quello che vuoi non puoi fare come ti pare. Un'altra che mi è piaciuta tanto, nella vita puoi fare tutto, ma non tutto insieme. Vero, assolutamente. Tutte le vite sono film che finiscono di merda, il protagonista muore, questo riguarda un po' il lavoro. Nella vita non sempre riesci a diventare quello che immaginavi a 17 anni, a volte ti tocca essere migliore. Nel mio caso io volevo fare il bassista alcolizzato, sono riuscito solo a essere alcolizzato. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sa, di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre, brutta testa di cazzo. Se non siete attenti, non preoccupatevi, potete sempre ricorrere al linguaggio scorrile, questo io lo faccio molto spesso. Solo gli stupidi non cambiano mai Ikea. Non sempre quello che vuoi fare e quello che ti va di fare coincidono. Improvvisamente ho la certezza che la vita abbia in serbo per me cose meravigliose, ma siccome sono in serbo non ci si capisce un cazzo. La maggior parte di quelli che dicono questo rapporto non funziona non ha nemmeno provato ad accenderlo. Gente scema, Dio l'aiuta, è questo. Vedremo come vanno le lezioni, infatti. Tiro su col naso, quindi esisto. Io soffro di sinusite, quindi meglio tutto e subito che un cazzo e mai. Paradosso, capisci di aver fatto una battuta intelligente quando ti dicono ridendo quanto sei stupido. Tre cose sono infinite: l'universo, la stupidità umana e l'avanzo del panettone dopo le feste, ma delle prime due non sono tanto sicuro. Religione, nel nome del Padre, del Figlio e della Spirito Saggine. Mandate il crocifisso fuori dall'aula, tanto non sta mai attento. Ho provato ad amare Dio, ma lui mi ha frenzonato. Questa mi piace tanto. Io non pronuncio mai il nome di Dio in vano, ho sempre degli ottimi motivi. Quando domani sarà il conto. Ma tu bestemmi? Sì, ma non professionalmente, solo per passione. Non sono ateo, sono diversamente dimorato di Dio. Questo è il toscano, funziona, la religione è... aspetta che... Ultimamente mi sono avvicinato a Cristo, ma lui si è scansato. Letteratura e poesia. Stavo per scrivere il romanzo della mia vita, ma poi non sono riuscito a trovare la penna. Privilegi del poeta, poter chiamare donna mia anche ora che non te sei cagato e striscio. C'ho più dolore io del giovane Werther. C'è anche una certa romanità, effettivamente, in questo. Ah, questa è una delle mie preferite. Oggi, perché ci sono le ricorrenze. Ah, su Facebook, ecco. Oggi è la giornata mondiale della poesia. Pia in culo e porta via. Nel mezzo del casino di nostra vita. Vi stranite tutti per questa storia di Petaloso, ma è risaputo che la crusca fa cagare. Festività e ricorrenze. Chiusura di feste originale, la Befana porta la slitta, Babbo Natale la scopa. Oggi è la giornata internazionale della pace, celebrate la brutta testa di cazzo, più a volte insomma, c'è una forza di... Come hai festeggiato la giornata mondiale dell'orgasmo? Col cazzo. Televisione, chi si accontenta godre, che questa è stata una frase, stasera ero indeciso se guardare il Festival di Sanremo o l'esorcista sulle Rete 4, ma a me mi piace troppo l'oro, ho scelto il Festival. O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare Miss Italia. Non sono vestito a strani, sono il pilota di Gordian, questa è una cosa, per chi si ricorda, Gordian era un robot con tre armature una dentro l'altra, questo è un po' anni 70. Cinema, sarei una spalla comica formidabile, la mia sfortuna è che al mondo scarseggiano i protagonisti. Quanta gente deve ancora morire prima che la smettano di inserire papere dopo i titoli di coda? Mi fanno morire quelli che vedono due film l'anno e poi di uno dicono questo è il film dell'anno. Ragazzi, che succede? Questa settimana in testella non ha profetizzato niente. La mafia uccide solo a testate. Tesoro, mi si sono ristretti sti cazzi. Non c'ho freddo, imito Jack Nicholson nel finale di Shining. Jack è una brava persona, non lo dovete odiare. Questa è la fine, è freddura. E comunque, sempre meglio bastian contrario che attraio dritto. Rileggendo il mio pezzo mi sono reso conto che avevo scritto divertito e divertente omaggio. Vado a fare seppuku. Dite a Tannhauser di chiudere le porte che fa freddo. Ma tutti quelli che esultano per gli incassi di un film, poi due spicci gli arrivano? Ragazzi, aiutatemi, vorrei vedere The Hateful Eight, ma non sono riuscito a trovare i primi 7 capitoli. Insulti cinefili, fanno una colazione abbondante perché stasera ce ne dai a fanculo. Io con quel film lì non ci discuterei mai, ha ragione da Wenders. La casa dalle finestre che cazzo si ridono. Da un grande potere derivano grandi chicche sen cula. Quello che non ti uccide ti rende robocop. Scoop, in vista remake giapponese del classico neorealista Riso Amaro, in trattative per il ruolo principale l'attrice Silvana Manga. Queste sono quelle cose che io potevo mettere cazzate, perché sennò la gente va a cercare. Non potete immaginare che ho incontrato a Firenze Arnold Schwarzenegger. Non andate a vedere il film su 007, mi hanno detto che fa schifo. I misteri dell'universo. Perché nei film dicono sempre facciamo colazione insieme e poi pranzano? Questa c'è una spiegazione. Perché è britannico. No, poi per i nobili anche la colazione e il pranzo. Cioè, questa è una aneddoto divertente che c'è nella biografia di Thomas Millian. Che lui quando gli dicevano che vediamo colazione andava là con i cornetti. La vita è troppo amara per prendere seriamente i film di Nolan. Nolan ricorre, sì, è uno dei miei personaggi preferiti. È divertente Nolan, perché appena tocchi Nolan si scatena, quindi io lo faccio, cioè, pure lì ero partito serio con una critica, cioè, poi ho visto quanto si incazzano, no? Cioè, è divertente nel forte. Poi è così, c'è cioè, tutto perfettino, poi è un po' quello che gli dirige Senti a scuola, no? Oggi ho visto il mio primo Twilight, posso finalmente giudicare senza pregiudizi, è veramente una rottura di palle. E questa invece è una cosa seria, in realtà nessuno capisce niente di cinema, è il cinema che capisce di noi, e quando un film ti ha capito e ti ascolta e tu ti senti capito, allora ti innamori. È la mia riflessione. Un po' più seria. Ogni tanto a me. Cibo. Porca puttana, mi sono morso con la pasta, era ardente. Scusi cameriere, il fagottino alla merda conterrà mica olio di palma. Cena di gala, preferisco le cene di gala, che arrivano dopo un po'. Ho un amico chef che se la comanda di brutto, una vera eminenza grigia. Fumetti, vabbè, la saltiamo perché è proprio per fumettari. Tech web e videogame. Oh. Tech web e videogame. Stanno costruendo delle tastiere con il tasto più desencura integrato per difendersi dagli attacchi di cyberbullismo. Anche qui, cazzate, ironia. Io sto scherzando. Se no qualcuno la cercava, più desencura. Caro mio PC, nessuno pretende che tu faccia la voce di Scarlett Johansson come nel film Lei, ma se la smettessi di chiudere il browser a cazzo di cane mentre stavi girando sarebbe gradito, grazie. I social network sono la più grande espressione di democrazia possibile al giorno d'oggi, che la dice lunga su come stia messa la democrazia al giorno d'oggi. È incredibile come scambiarsi cuoricini con un'amica su Facebook risulti infinitamente più gay che scambiarsi cuoricini con un amico su Facebook. Pare che l'inventore di Kickstarter sia riuscito nell'impresa aprendo una campagna su Kickstarter. Interstellar. Anzi, è Inception. Ho comprato un nuovo smartphone. È un palmare potente, un'agenda elettronica precisa, una macchina fotografica di grande definizione, un versatile strumento di comunicazione e connettività, una console da gioco portatile innovativa e funzionale, come telefono una merda, ma non si può avere tutto. Ma i cyberbulli sognano pecore elettriche? Peggio della rete che non funziona, c'è solo la rete che funziona a scatti, questo è proprio, c'è nel senso, è così. Chi si fa troppi selfie diventa cieco. Io di videogiochi me ne intendo, te sei una sega. Che poi alla fine Angry Birds si traduce liberamente in cazzi amari. Ragazzi, è per una ricerca sociologica. Si è mai avuta testimonianza di qualcuno che dopo aver scritto orgogliosamente su Facebook ma invece di andare a giocare a Pokémon Go andate a figa, sia poi effettivamente andato a figa, magari con successo, fatemi sapere, ASAP, è importante. In tre occasioni nella vita vale tutto, in amore, in guerra e a Grand Theft Auto. Lavoro, l'appassionato di cinema sogna di incontrare le star, il giornalista di cinema pure, ma lo sogna più da vicino. La bestemmia è un apostrofo rosa tra le parole lo smartphone e mi ha cancellato l'intervista. E questo pure è storia, cioè è successo, per fortuna è vita vissuta. Il tuo lavoro ti deve piacere, ma non tanto da farlo gratis, quello che dicevamo. Effettivamente. Fino a ieri il principale problema dei critici era quello di essere pagati, oggi è quello di essere cagati. Perché interlocutore, non riesco mai a capire se quando parli di un film sei serio o no, io nemmeno io, che è quello che dicevamo per l'appunto qui. Oggi è una di quelle giornate in cui anche realizzare piccole cose rappresenta una grande conquista, tipo trovare il tempo per fare la pipì. Un attimo di pausa perché così facciamo suspense. Sei ignorante, non rispetti i miei gusti e poi è evidente che di cinema non capisci un cazzo. Stilerò la classifica delle migliori classifiche dei film dell'anno. Se poi dovessi aprire un negozio di cuccioli di cane, lo chiamerei Bauhaus. Il posto fisso non è tutto, c'è anche il posto fesso. Funziona molto elettrico. Sto partendo, ho incaricato il mio legale di ruttare in faccia a chiunque avanzi la battuta vai a Cannes a farti le canne. sempre, c'è sempre questo. Non ti fare troppe canne. Legale, ci guarda, vai tu perché io. Ho finalmente capito cosa voglio fare da grande. Un cazzo. Politica, oh, questo è per oggi. Vegano inserisce una fetta di seitan nella scheda elettorale con la scritta mangiatevi pure questa. Berlusconi è tornato in pompa magna. Secondo voi prima magna o prima se fa fare una pompa? Ricordatevi che anche i partigiani hanno fatto un sacco di porcate, però ragazzi, che stile. Per me Berlusconi era il premier ideale per rappresentare l'Italia di oggi, va a puttane. La Gran Bretagna è uscita dall'Europa e non riesco manco a uscire dal garage senza legare la portiera. Vorrei anch'io dire qualcosa di intelligente su Trump, ma non vado tanto forte con gli ossimori. Salute. Ho messo la testa a posto, solo che non mi ricordo in quale posto. Se il problema è lo stomaco, rimettiti, non è un buon augurio. Il naufragare è dolce in questo Manox. Al mio segnale scatenata l'imodium. Quando leggerò i risultati delle mie prossime analisi del sangue si manifesterà Nyarlathotep, che è un grande antico di Lovecraft, uno di questi mostri tentacolari. Quando sono entrato nello studio del medico curante nel 1984, in che anno siamo esattamente? E poi c'è la sezione 8, VM18. Ah! Sì, ma tanto non ci sono minori. Non ci sono minori. Questa la uso spesso. Oggi c'ho talmente tanti cazzi che con la metà Sasha Grey si spaventa. È una volta piede di grano, è una volta un buon fuocherino. Certo che se ne inventavano le scuse per nascopare. Chi mi ama mi sega. Stamattina ho intervistato Rocco Siffredi. Appena arrivato mi sono subito reso conto che sarebbe stata una cosa lunga. Questa poi è vera. 50 sfumature diventa una saga, per la sega non c'era abbastanza materiale. Chi dice donna dice dammela. In testa alla classifica del box office c'è un film erotico, a questo link le prime 10 posizioni. È incredibile come certi uomini non abbiano ancora imparato come si parla una bella porcona come te. Per lavoro ho dovuto intervistare una nota star del porno, ma lei ha subito esordito con mi raccomando non mi metto in bocca cose. Facebook. Un amico è improvvisamente scomparso da Facebook senza preavviso e senza dare spiegazioni. O è morto o è semplicemente in puerile ricerca di attenzioni. Ma io sono un tipo ottimista e penso che sia morto. A cagare chi non vi caga ci si perde sempre nella vita come su Facebook. Poi questo l'abbiamo detto prima, quindi non la ripeto, sull'utente che non capisce la relazione neutra, quella era una riflessione. Quando muore qualcuno di famoso su Facebook è il lutto libero. Record mondiale, il meme di John Travolta spaesato rompe il cazzo dopo solo 2 giorni di diffusione. Istruzioni d'uso, anche se su Facebook uso la forma tu, quello che leggi sul tuo profilo non è mai rivolto a te. Questo è stato anche un'altra cosa che ho dovuto chiarire. Raga, ho scoperto una cosa pazzesca, quando condividi i link su Facebook, se clicchi sul titolo si apre un articolo e si può leggere. La peggior carognata che puoi fare a uno che ti aggredisce su Facebook è rispondergli gentilmente, verissimo. Cioè se ci restano malissimo, si mettono a piangere e smettono immediatamente di litigare. Okay. Su Facebook vince sempre chi non c'ha un cazzo da fare. A causa del fatto che Facebook ha scelto di includere un software che permette il furto di informazioni personali, dichiaro quanto segue, sti cazzi. No, c'è questa bufala che ricordo. Ho voglia di farmi un falso account Facebook a nome Jack Frusciante, solo per avere la soddisfazione di uscire da un gruppo. È questo. Musica. Raga, io ci ho provato a prendere i biglietti per YouTube, ma non sono mica buono, questo non so se fuori da Roma funziona. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori da Facebook nessuna pietà. state tutti a vedere Bruce Springsteen tranne me e Bruce Springsteen. Lennon, io prendo una coppetta, io cono. Scoop musicale, salta fuori la registrazione di una collaborazione tra Frank Zappa e Luigi Tenco. Tenco una minchia tanta. Io vorrei sapere quelli che cazzo si cantavano sotto la pioggia, perché evidentemente gli ho da tanto quando ho scritto questa cosa. Ozzy è il padre di tutti i vizi. Patti bravo, amicizia lunga. Vacanze e viaggi. In vacanza faccio le cose che non mi capita mai di fare in città, tipo annoiarmi. Parigi va bene una mousse. Quando ero ragazzino mi giudicavano male per i jeans strappati, i capelli lunghi, le maglie di Sepultura, l'orecchino, il ciondolo a forma di croce. Ora perché posto su Facebook le foto delle vacanze? Quanto rosica la gente quando metti a fare una cosa incredibile. Che noia, capito? Ne guardavo, no? Cioè, proprio, ci fanno. E poi vabbè, chiudiamo con un po' di varie così. A genio, esaudisci il mio desiderio, vattene a fanculo. Uno per sé sogna grandi imprese, e poi se riesce a digerire è già un miracolo. Io oggi dal pigiama non esco. Io comunque se mi fio nasce omofobo faccio diventare gay friendly a furia dei cazzotti. Una mano lava l'altra, ma non dimenticate di lavarvi anche il culo, importante. Anche le formiche nel loro piccolo si scazzano. Questa è una cosa che un omaggio, che mi piace moltissimo. Questa è una cosa per i romani, quindi daremo loro bumper sfocaccia o la spa o la vacca. Questa casa non è un albergo, me ne sono accorto, si mangia di merda. E insomma, direi che poi il resto lo lasciamo scoprire a chi si vorrà fare il passaggio di Goldrake. Così. Adesso diciamo io a Roma, seguendo la promozione, faccio delle serate in cui faccio la lettura del libro più le altre cose che sto scrivendo ancora, perché continuano a essere produttivo ovviamente. Ah, questo libro però ha creato una scrittania e qui adesso sei obbligato ogni giorno a tirar fuori un... Se lo aspetta, ma mi è abbastanza contrario, è una cosa che non la soffro, diciamo. Sì, anche perché... Allora non scrivi niente. È un momento, sì, no, un momento di relax, no? Tra una cosa e l'altra. Tasso, poi è talmente immediato, ormai tiri fuori il telefono, subito, prendi, scrivi, insomma, quindi è una cosa che faccio abbastanza spontaneamente. Curiosità? Domande? Non c'è mai ma quando stai per chiudere cioè, aspetta no vabbè a questo punto io ringrazio i presenti insomma, per esserci stati ad ascoltare il libro vabbè cioè, è in distribuzione su tutti i canali principali cioè, sono online Amazon IBS Libreria Universitaria e tutto quanto. Non oltre sempre... alla tua pagina Facebook hai no, io... vari blog? No, io no. Blog, a parte il blog dei Vendicazzari, però è un'altra cosa, se passate per trovare se vi piacciono le vignette, quello sicuramente, però principalmente la mia pagina Facebook, e poi c'ho la pagina invece professionale dove però insomma, sì, è più una questione di promozione, insomma, però i miei status li trovate sulla mia pagina personale. Facebook, il libro si può acquistare anche dal sito dell'editore Edizioni Progetto Cultura, se no libreria, continuandolo, oppure stasera, non è che ci sia, se qualcuno no, vuole la firma, sono qua, ben volentieri. Grazie a Kansas City, grazie a Simonetta, a tutta l'organizzazione, insomma, a Federico, veramente. È un piacere.